Adios!

Federico. Quella donna chi è? La principessa. Sì. Dottore, una disgrazia, un assassino. Il conte, o bella. O medico, andiamo da te. Eccomi. Il signore Giovanni di Sirie. Ma con questo? Ha detto all'ambasciata di Francia. La ringrazio. Il farmacista è subito un prete. Slitta. Parla, parla, parla. Egli disse, andiamo al tiro. Andammo, attesi un quarto d'ora. Subitamente nel gran silenzio sono e spari. Ascolto. Nulla. Più nulla, tranne lunghi latrati. Oh mio stupore! Forse innato spito cancello, corre a Sirocco, transano non seppi. E poi, quel buon correndo, avea lasciato sulla neve stille di sangue. Come che io prego mio volte, salvo mio Sia dunque, signore, a chiedermi guida da un padiglione solitario. Saliamo, lordo di sangue giace il conte. Nave a fessarmi impugno, a terra stava. Solo colpo esplose, appartene dal conte. Sì, inerme non usciva, poiché era minacciato. Minacciato? Minacciato? Qual figlio al generale vostro capo? È un nichilista. Fatemi appunti. Fu preso da una vecchia in affitto. Silenzio! Grida! Padiglione fu preso da una vecchia. Una vecchia? Una vecchia oggi recò una lettera al conte. E questa lettera? È in quel casetto. Il figlio mi fida, sono mia. quell'uomo vedesti il suo nome. Non lamento. Vicino provo, sforzati, cerca. Cerca. Cerca. Non trovo. Cerca. Sciocco, e soffio il mio libro, e non ti forse. Un giorno di Natale, un uomo sulla soglia, loco con colonna. Seguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo. L'ombre si sono riunite. L'han preso. Signora. La rivedo. Divino, diventa mio. Solo oriente e genero, se aveste ordini per la Russia. Partite! A mezzanotte! Venga domani! Poi verremo allora! Entro molto! Addio! Addio! Que si ve